Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti ad una nuova puntata di Salva Danaio da Deborah Rosciani. Vi sono mancati i mutui, la settimana scorsa non ce ne siamo mai occupati, allora eccoci di nuovo qua. La multa dell'antitrust al gruppo Barclays per pratiche commerciali scorrette, l'accordo fra Ministero dell'Economia e ABI, l'associazione delle banche, sui Tremonti Bond, con il quale le banche devono impegnarsi fra le altre cose anche a sospendere il mutuo alle famiglie in difficoltà. Tassi sempre più bassi, spread sempre più alti, l'applicazione del famoso tetto del 4% e il modulo per autocertificare i mutui accesi nel 2008. Eccole qua le notizie più recenti, non ci mancano mai nell'ambito mutui, e anche questa settimana, siccome ne sono arrivate un bel po', eccoci che abbiamo riconvocato il nostro duetto preferito. Bentornata Roberta Nedda, responsabile marketing mutui online. Grazie, aver ritrovati, un saluto agli ascoltatori. E ben ritrovato anche a Maximilian Cellino, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Ovviamente iniziate subito, lo avete già fatto, neanche ho fatto in tempo a pronunciare nel collegamento del giornale radio la parola mutui, che già i centralini si sono rapidamente accesi. E allora continuate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24 per raccontarci come sempre i vostri casi, che prenderemo come spunto per commentare le notizie recenti in questo settore. E il numero verde è l'800 24 00 24, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. La borsa anche oggi la monitoriamo con attenzione, perché ieri abbiamo avuto una giornata di nuovo pesantissima per i mercati. È stata tutta colpa del settore auto negli Stati Uniti, c'è stata così la comunicazione di quelli che sono stati i risultati del lavoro della task force messo in piedi dal presidente Barack Obama, che ha definito che cosa? Che i due colossi americani dell'auto, General Motors e Chrysler, sono praticamente in bancarotta, nel senso che non sono stati giudicati soddisfacenti i piani di rilancio che i due gruppi hanno messo in piedi. E quindi Barack Obama cosa ha detto? Ha dato 60 giorni di tempo a General Motors per riformulare questo piano, e a Chrysler ha detto: ti do 30 giorni di tempo a patto che tu porti in porto l'alleanza con Fiat. E questo messaggio, che è passato ieri stamattina, sta di nuovo ridando un po' di fiato al mercato. Ma rispetto ai cali che abbiamo visto fra i 4 e i 5 punti e i 6 punti di Milano, il rimbalzo è piuttosto modesto, più 1,22% per la piazza di Parigi, Francoforte più 0,76%, Londra un po' meglio, più 2,50%, Milano a metà strada guadagna l'1,57% sull'S&P MIB. Il rialzo più forte è proprio quello di Fiat e di tutta la galassia del lingotto. Fiat più 8,53%, fra i titoli minori abbiamo anche il rialzo di Exor e di tutte le società appunto di risparmio. Per quello che riguarda poi gli altri titoli con i rialzi più forti a Milano, Pirelli più 6,62%, rimbalzano i titoli del credito, del settore bancario, Unicredit più 5%, Banco Popolare più 4,29%, abbiamo un rialzo del 3,57% anche per quello che riguarda Impregilo. La società ha annunciato che realizzerà un impianto idroelettrico in Sudafrica, un progetto che vale circa 600 milioni di euro. Abbiamo poi un rialzo di 3,5 punti anche per Atlantia, per Alleanza. Monte dei Paschi ha raggiunto un accordo transattivo con Parmalat, più 2,77%, mentre dall'altra parte troviamo anche titoli bancari che continuano a scendere. La Popolare di Milano perde il 2%, UbiBanca perde l'1,61%. Euro su dollaro a 1,3294, il petrolio è tornato a scendere nelle ultime ore in maniera anche violenta. Ieri a New York si è riportato addirittura sotto i $50 al barile. Questo è tutto per quello che riguarda la borsa, noi però andiamo subito a tutte le novità nell'ambito mutui. Tassi ai minimi e spread ai massimi. Sembra essere questo lo scenario per chi si appresta a sottoscrivere un nuovo mutuo in questo periodo. A fronte infatti di un Euribor che continua a viaggiare intorno all'1,5%, la maggior parte delle banche ha alzato lo spread, ovvero il margine fisso, valido per tutta la durata del mutuo, che si va ad aggiungere all'Euribor per i prestiti a tasso variabile o all'indice IRS per quelli a tasso costante nel conteggio del tasso finale. Spread che attualmente viaggia in media intorno all'1,4%. Ecco perché le rate di chi si appresta a stipulare oggi un nuovo contratto non sono così distanti rispetto a quelle proposte lo scorso settembre, quando il costo del denaro era intorno al 4,25%. E per chi invece avesse già un mutuo in corso? Tra il tetto del 4% previsto dal decreto anticrisi e le regole introdotte dal decreto attuativo dei cosiddetti Tremonti Bond, le novità non mancano. In particolare l'ultima riguarda proprio le banche che hanno sottoscritto i Tremonti Bond, dunque Unicredit, Intesa, MPS, Banco Popolare e Banca Carige, che come contropartita si sono impegnate con il governo a rispettare determinati parametri. Tra questi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per almeno 12 mesi per i lavoratori in cassa integrazione o per chi riceve il sussidio di disoccupazione. Una novità che sarà sicuramente utile per alleviare le sofferenze di molte famiglie, ma che difficilmente sarà disponibile a breve. Nel frattempo, non mancano soluzioni alternative. Molti gruppi bancari, tra cui gli stessi Unicredit e MPS, hanno per esempio messo a punto negli ultimi mesi programmi espressamente dedicati all'aiuto dei clienti in difficoltà con il pagamento delle rate o hanno lanciato prodotti che prevedono la sospensione della rata per determinati periodi o al verificarsi di eventi quali la perdita del posto di lavoro. 800 24 00 24, da dove cominciamo? Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta questa mattina. Allora, tanto per cominciare, la questione di Barclays, la multa dell'antitrust per pratiche commerciali scorrette, questa è anche un po' una questione delicata da commentare, il gruppo dovrà rispondere, però insomma si tratta di una multa per 1 milione di euro per pratiche commerciali scorrette in materia di mutui. Di fatto la banca avrebbe ostacolato la portabilità e soprattutto rendendola onerosa per tutti i richiedenti e per tutti i clienti. Noi li abbiamo chiamati a Salva Danaio, hanno ritenuto opportuno non venire a commentare e a dire la loro su questa vicenda. Di fatto insomma è un tema che speravamo di aver archiviato, ma ogni tanto dobbiamo riparlarne, le difficoltà del trasportare un mutuo da una banca ad un'altra, a quella ovviamente che ci rende la rata un po' più leggera. Detto questo, che è un tema che abbandonerei anche abbastanza rapidamente, adesso vedremo poi magari come si svilupperà, gli altri temi di cui parlare sono molti. Allora, abbiamo sentito, molte banche hanno formalmente fatto richiesta al Ministero dell'Economia per accedere ai famosi Tremonti Bond. Tremonti aveva detto: noi li concederemo a patto che le banche si impegnino a garantire credito alle piccole e medie imprese e a, come dire, sospendere il mutuo, la rata del mutuo, temporaneamente alle famiglie in difficoltà. Maximiliano Cellino, da questo punto di vista però ancora come le banche concretizzeranno questo intervento non si sa, è troppo presto, un po' presto per dirlo. Sì, un po' presto, diciamo che ci deve essere l'effettiva richiesta del Tremonti Bond, poi fa parte del pacchetto Tremonti Bond, come ha detto anche in precedenza la scheda, questa agevolazione mutua, una sorta di contropartita. E la cosa interessante è che l'accordo quadro tra l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, il Ministero dell'Economia ha fissato è che ci sono tempo 6 settimane dal momento in cui la banca fa effettiva richiesta dei Tremonti Bond, mette in piedi tutta questa organizzazione, non sarà a mio modo di vedere così immediata, poi da questo momento avrà tempo 6 settimane per pubblicizzare in maniera adeguata le agevolazioni anche a vantaggio delle persone, dei mutuatari che hanno perso il lavoro, che sono finiti in cassa integrazione. Quindi questo molti chiedono, ma se la mia banca non ha fatto i Tremonti Bond non posso avere le agevolazioni? Ecco, per il momento no, resta da vedere che in piedi ci dovrebbe essere una misura parallela, che è quel, ormai lo chiamerei vecchio, fondo di solidarietà a suo tempo lanciato dall'ultimo finanziario del governo Prodi, che non è mai stato messo in atto perché mancavano dei decreti attuativi che dovrebbero arrivare a giorni. Questo sarebbe valido, ecco, la possibilità di sospendere la rata, lì si parlava di 18 mesi anziché 12, ma comunque la cosa è abbastanza simile, la possibilità di sospendere la rata varrebbe per tutti, anche per quelli che non hanno fatto i Tremonti Bond. La cosa interessante, e qui concludo, è che questo fondo di solidarietà in realtà è stato riportato, rinominato un'altra volta, è stato rimesso in ballo proprio dall'accordo quadro dell'Associazione Bancaria Italiana e Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché hanno detto che qualora mancassero i soldi si potrebbe attingere a quel fondo, per cui vuol dire che questo fondo esiste e deve essere messo in piedi e ritorna alla sua missione originaria, se qualcuno avesse avuto la tentazione di utilizzare questo tesoretto per qualcos'altro. Poi, però, se no uno poveraccio poveraccio, insomma, una persona ha fatto un mutuo con una banca che non richiede Tremonti Bond ed ha un trattamento dispari, una certa disparità rispetto a chi... In tutto questo ci aggiungo Maximilian, magari lo ricordiamo anche rapidamente, che per esempio due delle banche che hanno fatto richiesta formale per i Tremonti Bond, Unicredit e Monte dei Paschi, hanno già avviato dei progetti per la sospensione delle rate alle famiglie in difficoltà, per le famiglie in cui un membro abbia perso il lavoro in questo momento. Per Unicredit, tra l'altro, abbiamo anche commentato requisiti piuttosto stringenti, però stringenti, insomma, e relativi agli anni precedenti, perché si va a vedere la busta paga di una persona del, mi sembrava, ora non ricordo esattamente, ma di Unicredit, si andava a vedere la busta, l'ultimo CUD probabilmente, anzi l'ultima dichiarazione che è quella del 2007, e si diceva che probabilmente, mi sembrava di ricordare, che la persona che può accedere ai benefici non dovesse avere un reddito maggiore di 25.000 euro nel 2007. Molti scrivevano anche a Mutui 24, hanno scritto dicendo sì, ho capito, ma io nel frattempo ho perso il lavoro. Ecco, e quindi, infatti, no, questo anche per arrivare a dire che magari insistendo un po' con il direttore, non esiste una banca, non è detto che la banca aspetti il Tremonti Bond per poter dare questa facoltà ad una famiglia che è davvero in difficoltà e che questa difficoltà appunto venga certificata. Magari ci torniamo su questi aspetti. Roberto Anedda, allora, mi è arrivata una mail ieri pomeriggio di un ascoltatore, leggo questa perché è una sintesi di tante altre che ci arrivano. Deborah, ti ascolto spesso alla radio, ho bisogno però di un consiglio diretto. Questo è il momento di far passare il mio mutuo a tasso variabile della durata ancora di 23 anni a fisso. Allora, il tema è: i tassi variabili sono veramente, stanno grattando il fondo in questo momento, quindi sono a livelli, quindi tutte quelle famiglie che avevano visto esplodere il loro mutuo tra settembre ed ottobre, adesso invece hanno visto una discesa molto molto repentina. Il tema del passaggio addirittura si pone in una fase come questa, quando c'è una differenza di almeno due punti fra il miglior variabile e il miglior fisso? Diciamo che in generale la scelta tra fisso e variabile, che si tratti di un mutuo nuovo o di un mutuo eventualmente da modificare come tipo di tasso, dipende innanzitutto dalla durata del mutuo, in questo caso dalla durata residua. 23 anni sono sicuramente parecchi, bisogna capire se il mutuo è partito di 25 o di 30, forse di 30 ne sono già passati 7 e comunque rimane un ma buon... forse 7 anni fa mutui a 30 anni ancora non venivano forse erogati, qualcuno però qualcuno, appunto a maggior ragione bisogna vedere anche 25, esatto, così ipotizziamo, per cui è veramente all'inizio. Valutare anche che spread venga applicato sul variabile, perché magari è uno spread particolarmente conveniente e con i tassi di adesso, per quanto i fissi siano ai minimi storici, ci potrebbe essere comunque nel breve un aumento della rata. Sicuramente approfittare in questo momento di tassi fissi è una scelta ottimale in termini di sicurezza e anche tutto sommato di costo nel lungo termine, perché ripeto, siamo ai minimi storici come tassi, siamo sotto il 5% anche per le durate più lunghe, quindi addirittura fino a 30 anni, quindi il mutuo dell'ascoltatore sicuramente potrebbe spuntare un tasso tra il 4,5 e comunque sotto il 5, che anche nel lungo orizzonte di tempo dei 20 e passa anni è sicuramente un buon tasso di tutela. Sicuramente il variabile, per quanto basso adesso, un domani, dato che tutti ci auguriamo che questa crisi entro breve passi, per breve possiamo dire anche un paio d'anni, man mano questo sì, dovrebbe questa portare. Questa è una crisi che ha, come dire, delle considerazioni temporali molto particolari. Esatto, è difficile fare delle valutazioni, però ipotizzando che nel medio termine la situazione rientri in quelle che sono le logiche, i normali andamenti economici, sicuramente avremo di nuovo un'economia che si riprende e anche un'inflazione che risale. Abbiamo sentito anche perché poc'anzi, date tutte le emissioni di liquidità che ci sono sul mercato, dovranno essere riassorbite prima o poi, pertanto esatto, quella è l'unica strada. Abbiamo sentito al momento l'inflazione ai minimi addirittura da 40 anni, all'1,2, ma sicuramente non è un livello fisiologico, per cui anche i tassi un domani potranno salire. Chi in questo momento o ha un variabile o sta scegliendo un variabile deve capire che il livello di adesso è forzatamente, anche se fortunatamente, basso, e quindi nell'arco di alcuni anni questi tassi potrebbero risalire di alcuni punti. Ecco quindi che un fisso fatto alle condizioni attuali, anche per lunghe durate, può permettere tutto sommato, quando si andrà poi a vedere quello che sarà stato il costo complessivo dell'operazione, quindi tra i 23 anni famosi dell'ascoltatore, probabilmente il costo tra i vari alti e bassi del variabile non sarà di molto diverso, per quanto magari un pochino più contenuto rispetto al fisso. Quindi, ripeto, in un'ottica di tranquillità uno almeno sa quello che spende, sa di pagare comunque un tasso conveniente e quindi, certo, rinuncia alla possibilità di usufruire in questo momento del massimo risparmio che il variabile potrebbe garantire, però, insomma, però un parametro che avevamo indicato anche nell'altra trasmissione con Maximilian Cellino era il seguente: se nel futuro una persona che ha un mutuo di questo tipo, cioè il tasso variabile tradizionale, è disposta a tollerare un rialzo della propria rata come quella che abbiamo visto per esempio tra settembre ed ottobre, Maximilian allora quello sa che è il massimo, speriamo, verso il quale si può tendere in un'ottica di qualche anno, e quindi se abbiamo superato quella fase magari si può continuare a mantenere il variabile. In caso contrario, se uno cerca la sicurezza, la protezione, diciamo che adesso la protezione è relativamente meno costosa rispetto a qualche mese fa, perché come diceva Ned, insomma, un fisso attorno al 5% si può trovare, qualche volta anche meno, qualche volta anche di più, devo dire, perché ho visto, andando personalmente in banca a fare un po' di indagini, c'è qualche fisso un po' superiore anche al 5% sui 20 anni per esempio. Però comunque è un costo relativamente basso per assicurarsi. È chiaro che se uno acquista il variabile, che se uno sceglie il variabile, per il momento guadagna, probabilmente guadagnerà anche alla fine del piano del piano di ammortamento pluriennale, però dall'altra parte è la sicurezza, certo, che non è quantificabile quanto valga la sicurezza, la tensione emotiva soprattutto. Allora io direi di aprire subito i microfoni ai nostri ascoltatori, poi ovviamente andiamo al tetto del 4%, a questo famoso modulo per l'autocertificazione di cui è stato diramato il facsimile, era pubblicato questa mattina anche sul Sole 24 Ore, vi spiegheremo a che cosa serve, però intanto andiamo ai casi dei nostri ascoltatori. Roberto da Milano, cominciamo con lei perché vedo che ha un mutuo con la banca che è stata multata dall'antitrust. Roberto. Sì. Io ce l'ho un mutuo a tasso variabile. Sì. Mi hanno mandato la lettera della legge Tremonti, che poteva usufruire di quella legge. Sì, la convenzione. Però io le ho mandato tutto il modulo alla banca, ma la banca non ha mai dato risposta. Sono andato a tutte le banche che la filiale che hanno a Milano, ma niente, loro non ricevono nessuno. Comunque, allora ancora continuano a farmi che io devo pagare tutte le arretrate per abbassarmi il costo del mutuo. Ah, perché lei, Roberto, comunque adesso è già in difficoltà col versamento della rata? Sì, perché io all'inizio avevo perso il lavoro. Quindi dopo ho trovato un altro lavoro e da due mesi sto continuando a pagare, però non alla banca, sennò a recuperare credito. Sì, Roberto, questo è un caso un po' più delicato, qua è il famoso anche ambito del cosiddetto credito incagliato che ha un po' più difficoltà ad essere risolto. Roberto, Anedda, no, tra l'altro la convenzione Abi Tremonti, se non sbaglio, era rivolta anche a quelle persone che appunto avevano la problematica della perdita del posto del lavoro, forse era anche nata per questa convenzione. Esatto, c'era comunque la previsione che l'agevolazione si potesse applicare anche a chi nel frattempo fosse in difficoltà, anzi a maggior ragione si dovrebbe dire. Ovviamente qui si aprono i soliti contenziosi di interpretazioni con la banca, nel senso che teoricamente la banca avrebbe dovuto applicare la convenzione, quindi consentire la riduzione della rata e parallelamente richiedere a Roberto il rientro per quanto riguardava gli arretrati da pagare. Invece la banca ha scelto di bloccare qualunque applicazione di agevolazione fino al recupero. Purtroppo sono quei casi difficili da dirimere, nel senso che la banca stessa si può appoggiare su alcune interpretazioni o alcune cose che la norma inevitabilmente non chiarisce. Il problema più grosso di questa banca, poi me ne assumo completamente la responsabilità del mio commento, è che proprio si rifiuta molto spesso di comunicare con la clientela. No, esatto, questo è un problema diverso e più grave sicuramente. Infatti, perché voglio dire, ricevere un cliente che è in difficoltà o comunque che è in ritardo e cercare di individuare insieme la soluzione per poter cercare di gestire almeno temporaneamente questo problema, io non credo che sia una cosa eccezionale, ma credo che sia il lavoro che ogni banca deve fare, a prescindere da questa che è stata multata. 800 24 00 24, rapidamente sentiamo Simone da Pisa e poi magari se riusciamo gli rispondiamo, se no rinviamo la risposta alla seconda parte del programma. Simone? Pronto? Ciao. Ciao. Senti, allora io sto cercando di fare un mutuo per una ristrutturazione, quindi circa il budget sarebbe circa 80.000 euro. Sì. Sto facendo un po' di preventivi a destra e a sinistra. La cosa secondo me scandalosa è che ti fanno tassi del giustamente 4,90, 5%, sto parlando del fisso ovviamente, sì, quando poi nessuno ti dice che ogni banca vuole per forza un conto corrente aperto in quella banca, e quindi c'è quel 4,90, quel 5% non è assolutamente vero, perché se cominciamo a metterci il bollo che sono 34 euro l'anno, le spese vive di gestione del conto, cioè di tenuta conto, non ha senso, quello è un tasso fasullo, cioè io ho già una banca tra l'altro online, quindi non pago praticamente niente, non vedo perché devo per forza o addirittura cambiare banco, aprire un altro conto corrente e avere spese inutili. È un problema che conosciamo bene, Simone, niente, la questione è fidelizzare il cliente, poi magari se questo, come dire, dal mutuo passa anche ad un altro prodotto di risparmi, insomma sono questioni, come dire, di politica commerciale che conosciamo da tanto. I mutui a Salvadanaio. Eravamo rimasti ad una considerazione di un ascoltatore che era molto inviperito per il fatto che se una banca ti concede il mutuo ti obbliga anche contestualmente all'apertura di un conto corrente. Roberto Anedda, commentavamo, sì, insomma politica commerciale anche abbastanza normale, visto che poi cerca di fidelizzarti quanto più può una banca. Sì, diciamo che il conto corrente è uno dei vari elementi, perché anziché il conto corrente ci si potrebbe lamentare dei maggiori o minori costi bancari che per lo stesso mutuo le diverse banche applicano, obbligatori o anche, discutevamo prima durante l'intervallo delle notizie con Cellino, delle polizze assicurative che vengono eventualmente richieste o tra virgolette imposte in determinati casi. E qui l'unica ovviamente è confrontare le diverse offerte, eventualmente vedere se la propria banca offre delle condizioni migliori anche sul mutuo, dato che Simone nello specifico aveva un conto online, però evidentemente magari la sua banca da quel punto di vista è meno competitiva, quindi purtroppo è sempre un bilanciamento. A volte c'è la possibilità di accedere a una condizione migliore rispetto alla propria banca per quanto riguarda il mutuo, ma poi c'è questo accessorio eventuale del conto. Tra l'altro le polizze a garanzia del mutuo si devono sottoscrivere anche per il mutuo di ristrutturazione, anche se in genere sono importi molto contenuti, il caso del nostro ascoltatore è di circa 80.000 euro, ma magari può essere chiesto un importo anche inferiore. Maximilian, sì. Allora, sulle polizze bisogna fare due discorsi a parte. C'è la polizza quella obbligatoria, diciamo quella per incendio e scoppio dell'abitazione, e poi ci sono le altri tipi di polizze che non sono obbligatorie quando si vanno a sottoscrivere un mutuo, ma lo stanno diventando, e questo è un problema. L'ascoltatore prima metteva il dito su un problema, quello dei conti correnti, e io ci aggiungo anche l'incasso della rata, 2 euro, che 2 euro al mese non sono niente, ma se poi sono 240 mesi, 240 forse sono troppi, no, 240 sono anche 20, 360, se sono 30 anni sono 20 anni, sono 240, sono 480 euro. E poi c'è l'attestazione per la detrazione degli interessi, che qualche banca fa pagare anche 20 o 30 euro una volta all'anno. Insomma, queste sono spese abbastanza elevate. Però il problema più stringente in questo momento è che le banche, vuoi per essere più sicure, vuoi perché sul mutuo in sé forse non ci guadagnano troppo e cercano di vendere altri prodotti, subordinano la concessione del mutuo alla stipula di una polizza vita, a vantaggio ovviamente della banca, oppure una polizza che copre in caso di morte del mutuatario, oppure ci sono altre polizze più complete, che ancora più costose, che coprono anche in caso di perdita del posto di lavoro o altri, o invalidità permanente o eventi simili. Allora, attenzione, io non sto dicendo che queste polizze non infatti servano. Infatti lì volevo arrivare, perché giustamente la banca deve anche tutelarsi qualora succeda un caso straordinario in un ambito familiare, e poi insomma questa casa che cosa succede, è tutto il mutuo che c'è impostato sopra. Io non sto dicendo che queste polizze non servano, perché sono polizze che possono essere utili sicuramente, anche e soprattutto per il mutuatario che si può trovare in queste difficoltà. Il problema è un altro, è che non si può, cioè non è, in realtà poi molte banche lo fanno in maniera chiara o surrettizia, non si può subordinare la concessione di un mutuo alla stipula di una polizza polizza vita, che tra l'altro è molto costosa, si parla del 4%. Posso dire, capita anche che qualche volta ci ritroviamo a doverla sottoscrivere davanti al notaio, esatto, al momento del rogito, esatto, senza avere alcun margine per poterci riflettere sopra questa cosa. Magari possiamo anche scegliere la nostra compagnia di assicurazione preferita, invece lì ci troviamo che in genere la banca ci può anche appioppare quella di sua preferenza, quindi insomma questi sono poi anche, ritengo, gli altri nodi. Sì, no? E non costano poco, perché molti chiedono, ma insomma quanto costano? Costano, si va dal 4 al 6, a volte anche 6,5-7% dell'importo del mutuo, che è una bella cifra, sono diverse migliaia di euro. Certo, non so, un mutuo da 100.000 euro sono 4-6 mila euro da pagare o immediatamente oppure volta a volta con la rata del mutuo, e perché le banche concedono un finanziamento allo stesso importo. Molto banalmente, il mutuo è da 100.000 euro, l'assicurazione mettiamo sia da 5.000 euro, la banca fa il mutuo da 105.000 euro, mm-hmm, tutto lì, sì. E poi voi andate a farvi i calcoli e vedete che lo spread in realtà non è più dell'1% come adesso, mm-hmm, ma diventa dell'1,5-1,6%. Certo, avete l'assicurazione, però magari siete voi che dovete decidere se volete l'assicurazione. Infatti, non la banca. Allora, è comunque sempre una protezione, però bisogna vedere poi anche come viene fatta sottoscrivere. Allora, 800 24 00 24, Luciano da Torino, il nostro numero verde, aspettava da un po'. Benvenuto a Salva Danaio. Luciano. Buongiorno. Grazie per l'ascolto. Senta, cercherò di essere breve. Grazie. Io ho aperto un mutuo a tasso variabile nel 2007 con la Banca Sella. All'epoca 4,15 con lo spread dell'1%, buono, sull'Euribor di un mese, sì. Perciò a 5,15. Non mi sono accorto che però c'era anche un tasso minimo prima del 4,50, poi l'ho discusso, me l'hanno portato al 4. Adesso questo tasso minimo me l'hanno portato al 3,15 e detto in modo non più discutibile. È giusto? Perché io col 3,15, avendo l'Euribor di un mese più 100, mi trovo ancora penalizzato. Certo, lei teoricamente, stante le condizioni attuali sui tassi interbancari, pagherebbe ancora meno. Allora, è spuntato questo famoso floor, Roberto. Pavimento, sì, il pavimento. Chi mi vuole rispondere? Roberto Anetta. Sì, il problema del floor ovviamente viene fuori quando invece i tassi scendono sotto questo benedetto pavimento, che sarebbe rappresentato proprio dal floor, cioè il limite minimo che si sottoscrive, questo è il vero problema, che il tasso non possa superare questa volta verso il basso. E quindi effettivamente, come dice Luciano, nel caso attuale lui riceve un danno per il fatto che, date le condizioni del suo mutuo, lui pagherebbe un tasso di poco superiore al 2%, intorno al 2,5%, e invece anche con la massima concessione, mm-hmm, fatta dalla banca, dovrebbe comunque pagare almeno il 3,15. Il problema è quello di avere sottoscritto un contratto, quindi un qualcosa che è stato accettato, che la banca tra l'altro potrebbe e valla a sapere due o tre anni fa che cos'era il floor. E infatti da questo punto di vista l'ideale sarebbe non sottoscrivere prodotti di questo tipo, proprio perché è difficile capire un domani quello che possa succedere. Va anche detto che a volte la presenza del floor ha permesso alla banca di applicare uno spread più ridotto, perché magari l'alternativa avrebbe potuto infatti essere l'1% già un paio di anni fa non era proprio male, anche se ce n'era qualcuna che viaggiava al di sotto, però non avere il floor e quindi eventualmente poter godere di maggiori discese dei tassi, mm-hmm, ma allo stesso tempo avere uno spread più elevato, quindi alla fine il differenziale non sarebbe sono stato anche parecchio. Così quasi sicura che nel momento della trattativa della stipula o comunque della trattativa per questo mutuo, la banca sicuramente si sarà con grande enfasi soffermata sul fatto che di fronte ad un aumento dei tassi avrebbe protetto il sottoscrittore del mutuo con il cap, quindi con la protezione verso l'alto, ma insomma il floor magari non è stato ben chiarito nei suoi termini. Maximiliano, una cosa interessante che diceva la ascoltatore che va sottolineata è, al di là del fatto, come diceva appunto in precedenza Roberto, che l'ascoltatore ha sottoscritto questa norma per cui è legale, la cosa invece interessante è che l'ascoltatore è andato in banca, ha discusso questa norma e se l'è fatta un po' abbassare. Allora, le banche probabilmente, qualcuno mi risulta che sia riuscito anche a farla togliere, e è chiaro, se vi trovate questa clausola della quale non vi eravate accorti ai voi all'inizio, pensate che c'è sempre la possibilità di andare in banca e ovviamente perdere tantissimo tempo, tutto quello che volete, e trattare con la banca. Ecco, è quello che io dico alle persone che si lamentano di questa clausola, dopo avergli detto guardate che l'avete sottoscritta. La seconda cosa è andate in banca, perché ho visto alcuni casi in cui è stata tolta o al limite trattata. Mm-hmm. Ci sono dei direttori tra l'altro molto ligi al dovere e alle direttive che arrivano dall'altro, ma c'è chi anche comunque un po' più elastico, Roberto Anetta, tratta con la propria clientela. No, questo sicuramente, infatti dice giustamente Maximilian, è sempre bene confrontarsi con la banca e verificare quale sia la flessibilità e l'elasticità. Va detto appunto che quando si tratta di norme previste nel contratto è più difficile contestarle. Dal punto di vista formale la banca non è che può essere tacciata di aver fatto sottoscrivere qualcosa, certo, in maniera nascosta, e io onestamente non sono neanche molto d'accordo con chi sostiene che questo tipo di norma sia una norma vessatoria. proprio perché, ripeto, la banca può anche giustificare il fatto del floor come motivo per aver potuto applicare una condizione, soprattutto di spread, più bassa. E quindi a questo punto quello che è lo svantaggio che si concretizza in questo momento si è concretizzato però fino a questo momento magari in uno spread minore, quindi in un tasso minore pagato. Quindi da qui a dire che sia vessatoria purtroppo ce ne passa parecchio, non ci sono ancora delle norme che stabiliscano che questo sia un tipo di clausola vessatoria. Il tema è facciamo in modo di non accorgerci in questa maniera dopo. Si rischia di fare muro contro muro. Insomma, siccome abbiamo visto abbastanza il peggio che poteva accadere sul mercato internazionale anche nel panorama dei mutui, allora facciamo anche così scorta di tutto quello che abbiamo visto anche magari succedere ai nostri più cari amici e quindi se siamo in procinto di stipulare un mutuo, adesso c'è un ventaglio molto ampio di cose che possono capitare per cui cerchiamo di proteggerci al meglio. Tra l'altro c'è un ascoltatore, adesso non so se riusciamo a recuperare questa telefonata da Roma, che vorrebbe raccontare vorrebbe chiedere come mai la portabilità del mutuo, la surroga per poter condurre in porto queste operazioni. Le banche chiedono, oltre all'assicurazione di cui abbiamo parlato, anche libretto e piano di accumulo. Questa ci mancava. Probabilmente le banche, per fare raccolta in questo momento, le strade le tentano tutte. Io ho fatto una polizza che copre l'intero residuo in caso morte, l'ho fatto per la mia famiglia e non mi è stata imposta, anzi sono stato io a volerla. Michele, è proprio questo, è quello che dico un ascoltatore che ci ha scritto, il messaggio che noi volevamo far passare. E, insomma, una polizza a protezione del nucleo familiare, se si è sottoscritto un mutuo magari lungo, la si fa proprio per scongiurare queste eventualità. Quindi l'importante, ecco, che non ce la ritroviamo, come dicevamo prima, magari condizioni straonerose, e nella giornata in cui stipuliamo l'atto di compravendita della casa e di sottoscrizione del mutuo, e quindi in condizioni emotive molto precarie, e quindi ci troviamo l'ennesimo contratto da firmare e non sappiamo bene neanche che cosa sia. Prima dei nostri ascoltatori, sì, Assenda Milano, perché ci dà modo di introdurre anche la questione del 4%. Buongiorno. Salve, grazie per l'opportunità. Grazie. Comunque, a lei. Senta, io ho fatto un mutuo nel 2005 con una banca, non so se posso dire il nome, sì, sì. Miglior Banca di Milano, sì. E mi ha fatto un spread al 2,25. Ah, però. Adesso, cioè, la rata era comunque a gennaio, era molto alta come tutti quanti, ma la mia banca mi ha proposto di fare la surroga al primo 5 anni al 6% di tasso fisso e poi dopo gli altri 20 anni. No, aspetti, Assen, lei ha rinegoziato con la stessa banca? No. Ah, ha chiesto la surroga ad un'altra banca qua nella mia zona, proprio, sì, dove ho un'altra banca, sì. Sì, conto corrente. Comunque, e mi ha fatto questa proposta. Io voglio chiedere, facendo la surroga, la vecchia banca che mi ha fatto un mutuo, dopo, nel senso, mi fa il rimborso di quelli del 4% del Tremonti, della legge Tremonti o meno? Sì, Assen, tra l'altro lei si ricorda adesso con questo spread del 2,25%, dati tassi, sì, variabili, insomma, gli è arrivata a pagare una rata tra il 7 e l'8% fra settembre e ottobre, immagino, sì, quindi sì, insomma, sì, è sì, bella sì, sostenuta. Sì, sì. Ha provato a rinegoziare con Melior Banca per farsi ridurre lo spread? Non, allora, mi hanno detto che bisogna proprio sostituire il mutuo. Ah, certo, va bene. Ma hanno proprio chiuso la porta. Abbiamo capito perfettamente, Assen, grazie molto. Allora andiamo al 4%. Maximilian Cellino, quali sono le novità delle ultime giornate? Ma intanto l'ultima novità è il modulo di autocertificazione. Però su questo modulo di autocertificazione bisogna fare, prima di spiegare che cosa bisogna fare, un passo indietro. Direi che bisogna molte persone che non sanno, dice, io ho diritto a questo 4% o no? Diciamo tre passi principali che deve fare una persona per capire se ha diritto al tasso per cento. Prima di tutto deve controllare che tipo di mutuo ha e quando è stato stipulato. Se è un mutuo a tasso non fisso per tutta la durata del periodo di ammortamento ed è stato contratto prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale, è possibile accedere al decreto. La seconda cosa da fare è vedere qual è il tasso pagato all'inizio, il tasso contrattuale, perché se questo è inferiore al 4%, allora lo Stato rimborsa dal 4% in poi. Se invece questo è superiore al 4%, mettiamo che sia il 4,5%, lo Stato rimborsa dal 4,5% in poi su tutte le rate del 2009. A questo punto è la terza cosa. Soffermiamoci un attimo su questo. Solo per il 2009 vale solo questo provvedimento per il straordinario? Sì, per chi ce lo chiede, perché chiedono anche se il tetto vada oltre. No, Luca, glielo dico, non va al 2010. Sì. A questo punto l'ultima cosa da fare è verificare di essere stati inclusi nelle liste che l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso alle singole banche. E questa è un pochino la cosa più delicata, perché può darsi che qualcuno non rientri in questa lista che dice chi è che ha diritto, chi è che ha il mutuo per la prima casa. Molti chiedono, ma come faccio io a sapere se sono in queste liste? Le liste sono pubbliche? No, le liste non sono pubbliche perché per un discorso di privacy arrivano dall'Agenzia delle Entrate, riguardano il contribuente, per cui tutte queste cose sono molto protette. Però credo che si possa andare legittimamente alla propria banca e richiedere, qualora non sia arrivato l'integrazione di Stato, richiedere se si è in questa lista. Qualora non si fosse in queste liste, esiste un modulo di autocertificazione che trovate sul sito dell'ABI, ma anche sul sito Sole 24 Ore. Sì, anche Mutui. Perché per andarlo a trovare sull'ABI è un po' complicato il percorso, poi magari lo spiego. Beh, è molto più semplice magari trovarlo sul sito del Sole 24 Ore. Si può trovare ed è da compilare e da mandare alla propria banca. È un'autocertificazione con cui si dice il mio mutuo è a tasso non fisso, è stato per l'acquisto della prima casa, tutto quello che dicevamo in precedenza. Attenzione, questa cosa non serve a tutti, serve soltanto a quelli che non sono inclusi nella famosa lista dell'Agenzia delle Entrate. E chi sono questi? Sicuramente quelli che hanno contratto un mutuo dal 1 gennaio 2008 al 31 gennaio 2008. Perché l'Agenzia delle Entrate non ha avuto il tempo di... Giustamente, è aggiornata le dichiarazioni del 2008 che finiscono il 31 dicembre 2007. E poi altri casi, chi magari non ha mai denunciato il mutuo, non ha mai usufruito delle detrazioni, può essere strano, ma insomma, evidentemente chi non fa... insomma, andate sul sito del Sole 24 Ore, sul blog di Maximilian Cellino, non sul blog, scusami, no, su sempre, Mutui 24, lo chiamo sempre blog, non so per quale motivo, ormai ce l'ho in testa, e poi c'è anche il pezzo esplicativo stamattina del notaio Angelo Busani sul Sole 24 Ore, pagina 32 di norme e tributi. Roberto, tu volevi intervenire sul caso di Assen, sì, che non ha potuto perché... rinegoziare il suo mutuo, cioè la banca gli ha detto no, tu lo devi sostituire, quindi ripartiamo da zero. Sia il tasso che l'atteggiamento data la banca con la quale aveva il mutuo non stupisce, perché non è l'unico caso, però più che altro, dato che lui faceva riferimento a un altro mutuo fatto con la sua nuova banca, in cui chiedeva, insomma, mi hanno proposto un 6% fisso per i primi 5 anni e poi non si è capito se passerebbe a variabile o come, vale il caso di dirgli di verificare eventualmente anche altre offerte, perché lui i primi 5 anni a 6%, mia banca già, data la situazione attuale, onestamente può trovare tassi anche di un punto più bassi. No, quindi... lui tra l'altro chiedeva, la surroga probabilmente la vuole fare nei prossimi mesi, ma qualora avesse superato il tetto del 4% sugli interessi corrisposti nelle rate già in corso, avrebbe diritto dalla vecchia banca ad ottenere il rimborso, Maximilian? Ah, sì. Certamente, certo. Finché non fa la surroga. E vedendo che aveva uno spread del 2,25%, pensando che nel 2005 i mutui si facevano, lui voleva attorno al 2%, lui presumibilmente parte da qualcosa più del 4%, quindi non avrà il tetto al 4%, ma avrà il tetto al 4 e qualcosa, lì deve vedere la prima rata pagata. Ho tutte telefonate bellissime, sono in grande difficoltà. Massimo da Roma, però, siccome ho anticipato che avrei voluto sentire lei, rapidissimo. Sì, buongiorno, grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Io volevo dire solamente, sono andato in banca con una surroga, dato che lo spread era effettivamente abbastanza basso, ho parlato con il direttore e mi ha detto, e dopo una quindicina di giorni il direttore ha detto sì, tutto bene, non c'è nessun problema, soltanto dovrebbe fare spostare i suoi titoli eventualmente sulla banca. Ho detto, quali titoli? Io non ne ho. Cioè, vabbè, allora eventualmente potremmo fare un piano di accumulo al 5 anni, vabbè, eventualmente vediamo. Dopo 20 giorni mi ha detto sì, allora tutto bene, quando faremo la stipula eventualmente, se lei ha un libretto di apportatore, 10.000 euro ce li mette così, certo. Tanto adesso scusate, ma queste cose perché non le dite prima di quando dobbiamo metterci a sedere e capire cosa dobbiamo fare? Che è quello fare? Che dicevo io, Massimo, perché poi è tutto lecito che la banca dal punto di vista commerciale ti proponga tutto l'ampio ventaglio di prodotti che hai in casa, ma va benissimo. Ma non è il momento in cui ci ritroviamo a ridosso della firma della sottoscrizione del mutuo. Comunque, Massimo, come dicevo prima, questo è un caso un po' particolare con questo direttore, perché ha proposto il PAC, ha proposto il libretto di risparmio. Il tema è che le banche devono far raccolta in questo momento, Roberto Anedda, e quindi ci provano in ogni modo. Sì, e poi non lo diciamo mai troppo spesso, questa è una situazione del tutto particolare in cui le diverse banche si trovano ognuna in una situazione particolare e che può essere anche molto diversa da un istituto all'altro, quindi bisogna prendere coscienza di questo, quindi accettare anche il fatto che ci possano essere banche, per quanto insomma importanti, ben diffuse sul territorio, italiane o estere che siano, che magari su determinate offerte commerciali, che si tratti del mutuo o di altre cose, in questo momento non riescono a essere particolarmente competitive o sono aggressive, tra virgolette, in termini commerciali, ma nel senso di cercare di appioppare più prodotti ad altri. Quindi, piuttosto che aspettare passivamente che tutte le banche offrano gli stessi prodotti alle medesime condizioni, che è un'utopia, bisogna spendere un pochino più di tempo, andare a confrontare diverse offerte, perché ci sono fortunatamente invece ben altri istituti che offrono condizioni, mutui nello specifico, lo diceva prima Maximiliano all'inizio, ci sono banche che fanno tassi fissi ben superiori anche al 5, proprio per la situazione che dicevamo prima. Fortunatamente ce ne sono altre che li fanno al di sotto, scegliamo queste banche, premiamo quelle virtuose. Del tema del mal di budget dei direttori di banca abbiamo parlato tante volte, probabilmente in questo momento questa patologia si è leggermente acuita. Grazie molto a Roberto Anedda e Massimiliano Ancellino per essere tornati da noi, ci ritorneranno molto presto. Da Deborah Rosciani, da Salva Danaio, a domani. Salva Danaio.